Ciao a tutti gli amici di Blu Radio Veneto, un saluto da Los Angeles da Terra Naomi. Vi aspetto in onda sabato 14 alle 21.